Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta. Focus Economia 17.05, un saluto da Vincenzo Miglietta e buon inizio di settimana. Il nostro approfondimento sulla giornata economica parte da un rapido sguardo alla situazione dei mercati finanziari. Borse europee con andamenti discordanti in terreno positivo, Milano e Londra, male Francoforte dopo i dati sulla produzione industriale tedesca. Wall Street intanto ha iniziato piano con l'obiettivo di allungare la serie positiva che l'ha portata a 9 incrementi di fila e ad aggiornare i nuovi record storici. Inflazione e petrolio sono i temi che dovrebbero concentrare l'attenzione degli operatori americani nelle prossime ore. Piazza Affari, dicevamo, in rialzo. Nel resto d'Europa acquisti, in particolare sul mercato minerario, bene anche energia ed auto. Il cambio euro-dollaro molto interessante in questo momento è 1,17 9,4. Dicevamo dei mercati FTSE MIB più 0,35%, circa 22.011 punti. I migliori e i peggiori al momento del FTSE MIB, vediamoli insieme rapidamente. I migliori: Banco BPM, Unicredit, FinecoBank, Poste Italiane, Mediobanca. I peggiori: Tenaris, Biper Banca, Leonardo, Luxottica Group e Campari. Più scambiati, i titoli più scambiati: Unicredit, Banco BPM, Intesa San Paolo, Eni e Tenaris. Questo per quanto riguarda i titoli più scambiati. Gli altri listini europei: DAX Francoforte in questo momento meno 0,42%, il FTSE 100 di Londra più 0,20%, Parigi meno 0,04%. Per quanto riguarda invece Wall Street, Dow Jones meno 0,04%, Standard & Poor's 500 è ad un livello in questo momento proprio di parità 0%, Nasdaq leggermente positivo più 0,25%. Lo spread poi dei titoli di Stato BTP nei confronti del Bund tedesco a 151,90 punti, meno 0,13%. Sin qui dunque gli andamenti dei mercati. Tra gli altri temi che affronteremo nella nostra puntata, la pensione e i giovani. Ne parleremo tra brevissimo con il collega Davide Colombo. Poi, per i trentenni crescono i rischi che si allontani il momento in cui si percepirà un assegno adeguato. Si allarga quindi la forbice tra genitori e figli, un tema questo interessante che occupa il pensiero di tante famiglie. Gli Stati Uniti quindi, che precedono nella modalità di consumo le tendenze mondiali, sembrerebbe iniziare la crisi dei grandi centri commerciali a favore degli acquisti online, l'e-commerce. Vedremo di capirne di più. E in tema di acquisti intanto è un vero e proprio boom dell'uso del POS, bancomat e carte di credito. Lo dice la Confesercenti. Questi i nostri temi, tanti temi di Focus Economia. Potete scriverci al 349-238-6666 oppure andare sui nostri social. Passiamo ora alle notizie in breve. Per le notizie in breve partiamo dalle materie prime, con l'oro meno 0,1% a $1,256 l'oncia, il petrolio meno 0,6% a $49,2 il barile. E sul petrolio la Russia e il Kuwait hanno iniziato una serie di colloqui separati con i rappresentanti di Iraq, Emirati Arabi, Kazakistan e Malesia al vertice OPEC di Abu Dhabi, dove si farà il punto su Italia e la produzione petrolifera, lo riferisce Bloomberg. quindi la Brexit, la difficile Brexit per quanto riguarda il governo di Londra. Vi sono notizie contrastanti, indiscrezioni che vengono diffuse e poi smentite da Downing Street. Allora partiamo con la principale indiscrezione, che è quella del Telegraph. La Gran Bretagna sarebbe disposta a pagare fino a 40 miliardi di euro all'Unione Europea per saldare il conto della Brexit, ma a patto che Bruxelles accetti di negoziare l'accordo economico nel contesto di un'intesa sulle relazioni future che comprenda anche un accordo sul commercio. E quanto rivela, dicevamo, il Sunday Telegraph, citando funzionari di Whitehall. A stretto giro la smentita, sempre però attraverso organi di informazione. Non sono per niente corrette le voci di stampa secondo cui il Regno Unito sarebbe disposto a pagare un conto del divorzio per la Brexit fino a 40 miliardi di euro, lo ha detto una fonte autorevole del governo britannico all'emittente Sky News. Non se la passerebbe bene la Germania, un dato che sorprende. Abbiamo visto poco fa come sta influenzando l'andamento della borsa di Francoforte. Frena a sorpresa la produzione industriale in Germania, registrando il primo calo dell'anno. A giugno è scesa dell'1,1% dopo il più 1,2% di maggio e controattese per un rialzo dello 0,2%. Su base annua la produzione industriale tedesca segna una crescita del 2,4%. Il calo mensile è dovuto principalmente ad una contrazione dell'1,4% della produzione nel settore manifatturiero. E poi l'alleanza tra Francia e Germania contro i colossi dell'high-tech. Parliamo della tassazione, della fiscalità verso i grandi colossi. La Francia è al lavoro con la Germania e altri partner europei per mettere fine agli escamotage che hanno consentito finora ai giganti high-tech come Alphabet, quindi parliamo di Google, Apple, Facebook e Amazon, di prosperare in Europa minimizzando i loro oneri fiscali e rubando quote di mercato alle società europee. Questo è un virgolettato del ministro francese delle finanze Bruno Le Maire, che in un'intervista all'agenzia Bloomberg anticipa che la Francia proporrà regole più semplici per una tassazione reale delle società high-tech all'Ecofin in programma Tallinn in Estonia a metà settembre. L'Europa deve imparare a difendere i suoi interessi economici con molta più forza. Lo fa la Cina, lo fanno gli Stati Uniti, dice Le Maire. Non si possono avere i benefici di fare business in Francia o in Europa senza pagare le tasse che le altre società stanno pagando. Questa dunque la fiscalità per i grandi gruppi, soprattutto che dominano il mondo del web. Passiamo al nostro paese. Nel periodo gennaio-giugno le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 205,168 miliardi di euro, in aumento dello 0,8% più 1,691 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2016. Lo comunica il Tesoro. Il Ministero di Via 20 Settembre segnala che il gettito relativo ai due periodi non è immediatamente confrontabile, dato che il risultato del mese di giugno 2017 è stato influenzato dalla proroga dei termini di versamento delle imposte di autoliquidazione, delle imposte sostitutive e di tutti i tributi la cui scadenza di versamento coincide con quella del saldo delle dichiarazioni dei redditi, nonché dalla contabilizzazione nelle entrate del mese di luglio dei versamenti. E l'annoso tema degli F-35, lo ricorderete, gli aerei militari, anni fa una grande battaglia politica, polemiche sull'opportunità o meno che il nostro paese si dotasse di questo tipo di aereo, arma effettivamente militare da guerra. Il programma F-35, scrive oggi la Corte dei Conti, è in ritardo di almeno 5 anni per le molteplici problematiche tecniche che hanno fatto anche sì che i costi del supercaccia siano praticamente raddoppiati. Anche le prospettive occupazionali per l'Italia non si sono ancora concretizzate nella misura sperata. Queste le accuse della Corte dei Conti, che però non pone uno stop al progetto, ma la Corte dei Conti dice: tuttavia l'esposizione fin qui realizzata in termini di risorse finanziarie, strumentali ed umane è fondamentalmente legata alla continuazione del progetto ed uscirne ora produrrebbe importanti perdite economiche. Dunque, insomma, siamo in ritardo con gli F-35, ci abbiamo speso molto, ma fermarci qui sarebbe un danno, lo dice la Corte dei Conti. Altro argomento, parliamo del boom del biologico in Italia, con un incremento del 20% delle superfici coltivate degli operatori. Secondo le elaborazioni effettuate dal Ministero delle Politiche Agricole, le superfici coltivate con metodo biologico in Italia nel 2016 hanno raggiunto quota 1.795.650 chilometri quadrati rispetto agli 1,5 milioni del 2015. Lo dice il ministro dell'Agricoltura Martina: in termini assoluti nell'ultimo anno sono stati convertiti al biologico oltre 300.000 ettari, crescono anche gli operatori che salgono ad oltre 70.000. Sentiamo allora il ministro Martina. Vero e proprio boom, passiamo dal 1,5 milioni di ettari di qualche anno fa al 1.700.000 erotti ettari di oggi, più di 70.000 operatori. Sono due segnali importantissimi che rilevano come il modello agricolo italiano stia diventando sempre più sostenibile, stia investendo sempre di più sulla sostenibilità ambientale di produzione. È 1,5 miliardi fino al 2020 con le regioni per investire sempre di più sui modelli agricoli regionali, in particolare proprio sul biologico in ogni regione. Queste le parole del ministro Martina, che aggiunge: stiamo lavorando con una programmazione seria per il sostegno al biologico e i risultati ci dicono che la strada è giusta. Oltre alle risorse europee stanziate con le regioni per 1,5 miliardi fino al 2020, abbiamo introdotto per la prima le mense biologiche certificate e rafforzato le norme sui controlli. Ora il caso Etruria. Con le anticipazioni di stampa sarebbero in arrivo le sanzioni della Consob per gli ex vertici di Banca Etruria, fra cui anche il padre del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. Lo scrive oggi Repubblica, spiegando che le motivazioni delle sanzioni sono legate all'occultamento della grave situazione finanziaria della banca e a non aver correttamente informato i clienti interessati all'acquisto delle obbligazioni della banca dell'elevato profilo di rischio connesso alle obbligazioni stesse. E l'importo complessivo di queste sanzioni, comminate dalla Consob a Banca Etruria, ammonta a circa 2,8 milioni di euro, e quanto raccolto in ambienti vicini alla commissione di borsa interpellati dall'ANSA. Rapidamente ci avviamo a chiudere questa pagina delle notizie in brevi, vi anticipo però uno dei temi di cui parleremo tra breve. Le imprese adottano liberamente nuovi sistemi di pagamento e le sanzioni non servono, crescono quindi cresce l'utilizzo del POS. Più 800.000 in 5 anni, sono le imprese che adottano liberamente nuovi sistemi. La modernizzazione del sistema dei pagamenti del nostro paese passa anche da una maggiore diffusione della moneta elettronica, che non si raggiunge certamente con il sistema sanzionatorio. Confcommercio ribadisce in una nota la necessità di agire sulla riduzione delle commissioni applicate dalle banche alle imprese, che restano ancora troppo elevate e che nel caso di pagamenti di piccoli importi assorbono molto spesso i margini di profitto degli imprenditori. Questo è un tema che ci interessa. Sappiamo dell'intenzione del governo di intervenire da settembre con ulteriori sanzioni per gli esercenti che non utilizzeranno la moneta elettronica. Le associazioni di categoria dicono che le sanzioni non servono perché piano piano tutti si stanno adeguando, coloro che ne lo fanno sono oggettivamente legati a delle situazioni di attività commerciali molto piccole. Questa è la giustificazione delle associazioni di categorie. Chiudiamo con l'Alitalia. Da oggi scatta la nuova fase della procedura di vendita di Alitalia. Il bando pubblicato nei giorni scorsi sui giornali stabilisce che dal 7 agosto alla mezzanotte del 15 settembre potranno essere presentate le manifestazioni di interesse. Dopodiché, entro 10 giorni lavorativi, i commissari straordinari comunicheranno ai soggetti in possesso dei requisiti requisiti richiesti l'ammissione alla procedura, trasmettendo l'apposita lettera che regolerà anche l'ammissione alla data room, ovvero alla stanza, immaginiamola così, dove ci sono i conti veri della compagnia aerea. Io direi che per le notizie in breve è tutto e possiamo passare al nostro primo approfondimento. Nostro primo approfondimento che si concentra sulla previdenza, sulle pensioni, i giovani li intendiamo coloro nati negli anni 80. Ho qui con me il collega Davide Colombo, collega del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Davide, grazie per la tua partecipazione. Buon pomeriggio a te Vincenzo. Allora Davide, tu ne hai scritto tante volte, ne hai scritto recentemente domenica sul tema della previdenza legata però ai giovani, le prospettive per coloro che sono nati negli anni 80. Se un giovane nato negli anni 80 si dovesse domandare quando andrò in pensione, probabilmente Davide non troverebbe qualcuno in grado di dare una risposta certa. Perché questo? Perché sostanzialmente c'è un meccanismo che adegua i requisiti all'aspettativa di vita e quest'ultima viene a sua volta monitorata e stimata dall'Istat ogni biennio o ogni triennio. Diciamo che attualmente, sulla base delle ultime stime che sono state incorporate nelle proiezioni tendenziali della Ragioneria Generale dello Stato, un lavoratore della classe 1980, cioè uno che oggi ha 36 anni, potrebbe andare in pensione anticipata con 66 anni e 5 mesi, sì, oppure con una pensione di vecchiaia di 69 anni e 5 mesi. Si è parlato, spesso si parla di rischio di andare in pensione per questa coorte di lavoratori qui del 1980 dopo i 70 anni. È un rischio che si corre se non si raggiunge una pensione minima almeno pari a 1,5 volte l'assegno minimo, e in questo caso c'è purtroppo una ipotesi di posticipo, cioè di proseguimento per qualche anno in più, secondo le stime attuali della Ragioneria addirittura 73 anni e 5 mesi. Naturalmente questo dipende dall'andamento dei versamenti contributivi di questi soggetti. Purtroppo sappiamo che è un problema concreto, reale, non teorico, perché molti giovani lavoratori hanno carriere frammentate, discontinue, sono certo, precari, sono stati precari o sono tuttora precari, e quindi hanno una prospettiva, stiamo parlando del 2050, tra il 2040 e il 2050, ma hanno la prospettiva di veder slittare effettivamente la loro possibilità di andare in pensione prima dei 70 anni. Quindi abbiamo due ostacoli per queste generazioni: da una parte una carriera lavorativa frammentaria e dall'altra un'aspettativa di vita che aumenta inevitabilmente grazie alla nostra società, e quindi i termini pensionistici che si innalzano, e già è difficile raggiungere quell'età lì, e in più carriere spezzettate con contributi. Però direi che se le consideriamo come se fosse un ragionamento da polizza assicurativa, diciamo, dei due rischi di cui giustamente parli, il rischio maggiore è quello della carriera frammentata, del reddito basso e della bassa contribuzione. Il rischio dell'aumento, dello spostamento, del momento di pensionamento a causa dell'aspettativa di vita, diciamo che è un rischio molto più temperato, nel senso che stiamo parlando da qui al 2050, per quel che riguarda i requisiti normali, l'aumento complessivo non supera i 3 anni e mezzo. Per cui diciamo che in alcune decadi si arriverebbe, nel peggiore degli scenari, a lavorare 3 anni in più rispetto a un lavoratore che si pensiona adesso. Questi 3 anni in più diventano 6 se purtroppo il figlio del lavoratore che sta andando in pensione adesso si trovasse ad avere una pensione troppo bassa, sotto 1,5 volte la minima, e quindi a dover lavorare qualche anno in più per maturarla. Ecco, questi ragionamenti che stiamo facendo qui sono inevitabilmente a conoscenza di Palazzo Chigi. Che tu sappia, si sta facendo qualcosa per queste generazioni, come si è cercato e si sta facendo per coloro che invece sono molto vicini all'età pensionabile, ricordiamo l'anticipo pensionistico, altri strumenti varati recentemente. Ma dunque la pensione di garanzia, che è ciò di cui si parla, cioè introdurre una sorta di zoccolo di sicurezza sull'assegno pensionistico pubblico per garantire appunto che questi giovani abbiano una pensione futura di un certo livello, cioè che non vada sotto quella soglia che dicevamo prima, è uno degli oggetti di riflessione. Però gli stessi tecnici che ci stanno riflettendo a questa misura e che si stanno confrontando su questa misura con i sindacati sono i primi a dire, o meglio, sono i primi a mettere le mani avanti e a spiegare che è onerosa questa misura, e affrontarla in questa ultima legge di bilancio, che è l'ultima legge di bilancio della 17ª legislatura, sarà abbastanza difficile. Sarà più facile affrontare temi come la messa a punto degli strumenti che sono stati varati, l'APE sociale, l'APE volontaria che dovrebbe finalmente, si spera, entrare in vigore a settembre, forse un allargamento di questa rendita integrativa anticipata, che è la famosa RITA. Si ragionerebbe su misure che consentono di aderire con più facilità alla pensione integrativa, che è un altro dei punti carenti. I giovani sono che non ritardo. È mai decollata poi più di tanto. È decollata solo parzialmente, meno del 30% dei lavoratori ha una posizione di previdenza integrativa. Nella pagina che abbiamo fatto domenica. Dedichiamo un titolo a questo aspetto per dire che solo un giovane su cinque è in questo momento iscritto a una forma complementare. Questo è è un ritardo importante, perché diciamo che è appunto a complemento della piccola pensione pubblica che si sta costruendo, la mancanza del secondo pilastro si farà sentire. 349-238-6666, il numero per i vostri sms, whatsapp, le domande su un tema così importante come quello delle pensioni. Davide, queste sono le difficoltà per i giovani, però noi in Italia continuiamo a parlare del mondo pensionistico, quando invece fatta la riforma Fornero e anche altri interventi, è stato un po' sbandierato da tutti, il sistema pensionistico è tra i più virtuosi in Europa, eppure allora abbiamo il problema di questi giovani che forse potrebbero avere degli assegni molto bassi. Grandi spese all'orizzonte non se ne vedono, eppure tu stesso scrivevi, nonostante il fatto che alla fine le pensioni non vengano erogate, non saranno erogate con grandi assegni a questi giovani, la spesa pensionistica italiana rischia nuovi aumenti, secondo il Fondo Monetario Internazionale, un più 2,2% nel prossimo ventennio. Ovvero, la domanda è questa: è possibile che abbiamo questo sistema pensionistico la cui tenuta è un po' sempre a rischio? Ma rispetto ai tempi della riforma Dini, quella del 95, diciamo si è verificato uno scenario macroeconomico che non era previsto. Abbiamo avuto un decennio di stagnazione, poi siamo andati in profonda recessione. Lì si immaginava invece, diciamo, una non clamorosa crescita dell'economia nazionale, ma almeno un percorso di crescita dell'economia nazionale, con collegato un mercato del lavoro che si sarebbe almeno tenuto espanso, non certo contratto come si è contratto nei tempi, nei modi che abbiamo visto soprattutto con la profonda crisi degli anni dal 2008 in poi. Il secondo aspetto, che è stato, diciamo, la seconda previsione sbagliata associata alla riforma Dini, è stata quella demografica, cioè non si è previsto che in pochi anni diciamo si sarebbero determinate delle dinamiche demografiche come quelle che abbiamo di fronte, soprattutto un tasso di natalità molto più basso, che è stato in parte bilanciato dai flussi migratori. Intendiamo in questo caso i flussi migratori di cittadini stranieri che vengono in Italia hanno un contratto di lavoro regolare. Qualche settimana fa le polemiche con il presidente dell'INPS Boeri, ovviamente, noi parliamo di immigrati regolari che entrano nel nostro paese stiamo parlando della badante polacca, certo, o ucraina, che appunto si cura degli anziani o dei bambini che abbiamo a casa, stiamo parlando appunto di questi migranti qui, ecco, che con i loro arrivi e con i tassi di natalità migliori dei nostri hanno in parte contenuto questo decremento nazionale. Questi sono stati i principali fattori che hanno determinato il fatto che la spesa si è stabilizzata, sì, però a un livello molto alto. lo scenario, diciamo, che stiamo affrontando è uno scenario rischioso perché purtroppo semplicemente ci stiamo avvicinando a quella che era invece stata giustamente prevista, cioè una gobba di spesa che si sta determinando nei prossimi 10 anni. Cominciano ad andare in pensione i cosiddetti baby boomers, cioè i nati negli anni seconda metà, certo, degli anni 50 fino alla fine degli anni 60, certo. Sono le coorti più numerose. Quando questo gruppo di coorti lascia il mercato del lavoro e va in pensione, determina un forte aumento della spesa pensionistica a regole invariate, che è prevista e che è appunto abbastanza contenuta, ma su livelli molto alti. Chiaramente in questo ventennio che si prospetta, i rischi che corriamo sono notevoli. Teniamo conto che la spesa pensionistica ha un peso rilevante, quasi il 60% della spesa di welfare, si avvicina a una buona metà della nostra spesa corrente. Teniamo conto, immaginiamo se non riuscissimo in quegli anni lì di gobba della spesa pensionistica a abbassare il livello del nostro debito pubblico, ci troveremmo in forti difficoltà. Proprio per questo gli allarmi che vengono lanciati vanno presi sul serio, perché lo scenario è dal punto di vista demografico certo, certo, dal punto di vista della crescita economica non sappiamo come andrà. È pur vero però che quando i ragazzi del baby boom andranno in pensione, e sono tanti, lo dicevamo adesso, lasceranno tanti posti di lavoro, vacanti. Saremo in grado di occuparli, no? I giovani attuali. Questo è vero, ci sarà un turnover molto forte, però Vincenzo, sappiamo anche che nel frattempo il mercato del lavoro sta cambiando profondamente, molte tecnologie stanno sostituendo molti posti di lavoro, lo vediamo in settori molto, molto tradizionali, per esempio pensiamo al settore bancario, no? O ad altri settori nel comparto dei servizi dove appunto le tecnologie sostituiscono, e questo da una parte è un bene, dall'altra bisogna fare i conti con queste dinamiche qui. Per questo purtroppo quando osserviamo l'andamento delle curve della spesa previdenziale non possiamo mai dormire sugli allori, perché purtroppo dobbiamo sempre tener conto a quei livelli di spesa associati all'alto livello di debito pubblico che purtroppo abbiamo. Un'ultima domanda brevissima, mi sembra di capire, in base a quello che tu stai dicendo, che del riscatto della laurea se ne è parlato negli ultimi giorni, proprio si metta in un cassetto e si chiuda lì, non c'è proprio speranza. Naturalmente al governo possono decidere tante cose, probabilmente se ne parlerà nelle prossime settimane in vista della legge di bilancio. Io personalmente sono un po' scettico, nel senso che intanto è costosa, secondo sono abbastanza d'accordo con chi ha osservato che creerebbe delle disparità. Pensiamo banalmente a un giovane che finito un istituto tecnico commerciale industriale va a lavorare sì, perché semplicemente non può permettersi di fare l'università, e il suo collega che fa l'università dopo 4 anni di università si vede riscattata la laurea gratuitamente e quindi lavorerà 4 anni in meno del suo compagno di istituto tecnico perché ha avuto la fortuna di fare, certo, l'università. Mi sembra un po' forte come scenario. Situazione forte da che sicuramente tornerà nei nostri argomenti di Focus Economia. Grazie a Davide, grazie a te. Colombo, ci fermiamo, spazio al meteo. Crefozert, e rafforzi la tua immagine nel mondo. www.creditreform.it vi presenta Focus Economia. . 17:36 Focus Economia, siamo al momento dei mercati. Ci aiuta ad interpretare la giornata di Piazza Affari la collega di Radio Core, Il Sole 24 Ore, Flavia Carletti. Buon pomeriggio, Flavia. Buon pomeriggio a tutti. Flavia, allora esordiamo dicendo borse europee contrastate. Cosa vuol dire? Perché vedo tanti segni negativi, anche però positivi. Sì, allora oggi Milano ha fatto, diciamo, meglio delle principali borse europee, guadagnando più 0,43% con il FTSE MIB, grazie soprattutto all'andamento delle banche che sono molto pesanti sul listino milanese, mentre invece per esempio il DAX 30 Francoforte ha perso lo 0,3% e Parigi si è mantenuta più o meno sulla parità. Francoforte, diciamo, è stata quella che è più penalizzata dal dato sulla produzione industriale tedesca, che nel mese di giugno ha evidenziato un calo dell'1,1%, mentre invece il mercato mercato si aspettava una crescita, anche se molto lieve, comunque nell'ordine dello 0,1-0,2%, dopo che aveva fatto molto bene a maggio, quando era salito dell'1,2%. Diciamo che questo calo è stato un po' inaspettato, anche se poi gli analisti, diciamo quegli economisti, analisti sono, diciamo, sbrigati a dire no, ma comunque non è un vero rallentamento di quella che è considerata appunto la prima, cioè quella che è la prima economia della zona euro e di Europa, e quindi in qualche modo però questo dato ha fatto da freno al listino tedesco in particolare, e poi in qualche modo ha innescato un po' di cautela su tutti, diciamo, i listini europei, anche alla luce del fatto che il Wall Street, che veniva da una serie di sedute positive che continuava in anellare record, sì, quest'oggi in avvio è partita bene, ma comunque si mantiene sulla parità. In questo momento il Dow Jones fa lo più 0,01%. Quindi parità per Wall Street, cautela soprattutto dal mondo tedesco per dati contrastanti per la produzione industriale. Venendo a Milano, vedo tra i migliori tutti i titoli bancari. Sì, esattamente, appunto il migliore è stato Unicredit, che ha fatto un più 2,57% e continua a salire dopo, da quando ha dato i conti semestrali, seguita da Banco BPM, che ha fatto un più 2,52%. In questo caso i conti, diciamo, in sé non hanno entusiasmato particolarmente, però ci sono altri fattori che sono comunque piaciuti al mercato, in particolar modo la vendita confermata di Aletti Gestielli ad Anima per 700 milioni di euro, e che comunque potrebbero aumentare alla luce di una serie di condizioni e di risultati che potrà raggiungere, e in più questa vendita in qualche modo, anche se l'esercizio dell'opzione put da parte di Unipol sull'accordo di Bank Assurance fa scendere quello che è il coefficiente CET1 della banca, però invece la vendita di Aletti Gestielli ad Anima la fa risalire ben oltre il valore del 12%, quindi proprio visto che in questo momento gli analisti guardano molto quelli che sono i requisiti patrimoniali delle banche, questa indicazione è stata valutata molto, in maniera molto favorevole. E in più poi il continuo attenzione a quello che sono le sofferenze bancarie, quelle che vengono chiamate appunto i non performing loans, e la società annuncia, la banca, che Banco BPM, ha annunciato che ha intenzione di cedere un portafoglio di 2 miliardi di euro entro la fine di quest'anno, e in più poi la volontà di dedicarsi nel corso del 2018 a una cessione ulteriore di quello che sarà il pacchetto residuo da 3,5 miliardi, che permetterebbero quindi con un anno di anticipo all'istituto bancario di centrare quelli che sono gli impegni assunti con la Banca Centrale Europea. Perfetto, questo sin qui per quanto riguarda Banco BPM. Bene anche Mediobanca, con attese per vendita del 3% di Generali. Sì, esattamente, Mediobanca recupera dopo una prima reazione iniziale ai conti, che la scorsa settimana non era stata perfettamente favorevole, e in qualche modo il mercato adesso c'è un po' di appeal speculativo sul titolo, su quello che potrà essere le prossime mosse. C'è stata di nuovo la conferma del fatto che Mediobanca vuole scendere dal 13% al 10% di Generali, e adesso ci si interroga su quello che potrà fare la banca eventualmente con quello che verrà da questa vendita. E di fronte al fatto che Alberto Nagel, l'amministratore delegato di Mediobanca, ha accennato alla possibilità di realizzare un'acquisizione per un ulteriore rafforzamento in altri settori, in qualche modo il mercato adesso guarda quello, perché pensa che dalla vendita di questo 3% di Generali possano arrivare le risorse per fare altre operazioni sul mercato. In discrezione del Sole 24 Ore invece su Saipem, che sembra aver spinto il titolo per notizie relative ad un imminente aggiudicamento di una commessa in Oman. Esattamente, Saipem questa mattina era partito molto bene ed era arrivato anche a salire del circa l'1%, poi alla fine ha chiuso allo 0,29%, un po' penalizzato dall'andamento del petrolio, che adesso è in calo, e a sostenere comunque il titolo è arrivata questa indiscrezione che dà come imminente l'arrivo di questa commessa in Oman da 800 milioni di dollari, che secondo il mercato, di fronte al fatto che attualmente il gruppo ha un portafoglio di lavori di 3,2 miliardi di euro, questo ulteriore commessa, se confermata, potrebbe in qualche modo dare una migliore visibilità e quindi anche più solidità a quelle che sono le prospettive per il 2018. Flavia Carletti, poi abbiamo Telecom e Mediaset, che stranamente le vediamo intrecciate nel loro andamento, sempre immagino io in attesa di sviluppi con Vivendi. Sì, esattamente, in parte è così, perché entrambe sono salite dell'1% e c'è il mercato che si aspetta appunto novità. Questa settimana potrebbe essere vista un po' come decisiva su quello che è l'intreccio anche societario in qualche modo tra le due, legato a Vivendi, che invece a Parigi oggi era debole, perché ci si aspettano, diciamo, i francesi devono dare delle risposte alle autorità italiane che hanno chiesto che cosa vuole fare Vivendi sull'azionariato, perché è stata congelata la parte che loro hanno di Mediaset, è stato detto in qualche modo che devono scendere, devono decidere su quale puntare. Poi nello stesso tempo, nel frattempo è emersa il fatto che comunque Telecom di fatto ha un indirizzo dato da Vivendi, quindi diciamo si aspetta che si sciolga un po' tutto questo intreccio. In più, diciamo, Mediaset ha beneficiato anche del fatto che l'autorità, quella sulle comunicazioni, sta valutando e ha acceso un faro, come si dice in gergo, certo, sul progetto di piattaforma per TV, Team e Canal Plus, che è sempre del gruppo Vivendi. E in più poi diciamo che oggi Telecom, c'è un po' di speculazione sul titolo, anche su quello che è stato detto da Bassanini, il numero uno di Open Fiber, che è la società tra Enel e Cassa Depositi e Prestiti, che ha detto esplicitamente in un'intervista alla stampa che loro potrebbero essere interessati, potrebbero essere il soggetto ideale per comprare la rete di Telecom se si arrivasse a quello che viene appunto atteso da anni, ma per ora non è stato, è rimasto sempre un progetto dello scorporo la rete. Bene, grazie a Flavia Carletti, collega di Radio Corriere del Sole 24 Ore. Chiudiamo qui la pagina dedicata ai mercati e passiamo alla crisi dei grandi magazzini negli Stati Uniti. Eh sì, parliamo di crisi perché sono più di 4.000 negozi e grandi magazzini statunitensi che hanno chiuso tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017. Entro fine anno si potrebbe arrivare fino a 9.000 saracinesche abbassate definitivamente. E parliamo di grosse catene come Penny e Radio Shack, hanno chiuso rispettivamente 138 e 550 punti vendita. Da ottobre si sono persi nel settore retail circa 100.000 posti di lavoro. In 15 anni il comparto ha perso il 25% dei dipendenti. Quindi il mito del grande magazzino, del mall come viene chiamato negli Stati Uniti, sarebbe in crisi. Lo chiediamo se è effettivamente così, i numeri sembrerebbero andare in questa direzione, al collega Marco Valsania, corrispondente da New York del Sole 24 Ore. Non ce l'abbiamo in questo momento, lo riprendiamo sicuramente a brevissimo. Allora arricchisco questa pagina, sempre dedicata ai grandi magazzini. Ricordo che sui grandi magazzini pesa la costante crescita dell'e-commerce, che oggi incide per l'8,4% del totale. Con questo numero ci fermiamo per dare spazio al traffico e poi in collegamento con Marco Valsania. Focus Economia. Di nuovo insieme per l'ultima parte di Focus Economia. Stavamo parlando della crisi dei grandi magazzini negli Stati Uniti, crisi messa nata dalla concorrenza dell'e-commerce, delle consegne online. Ne parleremo tra brevissimo. Restiamo nel mondo del commercio perché acquistiamo sempre di più grazie alla moneta elettronica, la vogliamo chiamare POS, bancomat, carta di credito, carta di debito, comunque che sia una transazione in un negozio oppure online, utilizziamo sempre di più questo strumento. Dal 37 settembre scattano le sanzioni per professionisti, negozianti, artigiani che si rifiutano di accettare pagamenti con bancomat e carte di credito. Come anticipato dal quotidiano La Repubblica, ogni violazione sarà punita con una multa di 30 euro. Entro settembre prevediamo di firmare il decreto che introduce le prime sanzioni per chi rifiuta un pagamento elettronico. Lo fa sapere il vice ministro all'economia Luigi Casero, quindi non vi è la certezza di questa introduzione di queste multe, ma ricordiamo che già la legge di stabilità del 2016 prevedeva che esercenti e professionisti dovessero dotarsi di POS per la lettura delle carte elettroniche. Noi però abbiamo con noi la presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, che saluto e ringrazio. Buonasera. Buonasera, buonasera Presidente. Confesercenti però ricorda che le sanzioni sono inutili perché negli ultimi anni vi è stato un vero e proprio boom dell'utilizzo, dell'incremento della dotazione degli esercenti dei POS, quindi perché fare queste sanzioni, lei dice, se gli esercenti si stanno adeguando con molta rapidità? Sì, direi che affrontare il problema pensando delle sanzioni è veramente non risolvere il problema monte. Insomma, se vogliamo andare verso un maggior utilizzo della moneta elettronica, bisogna partire da un dato importante. Il dato è che l'installazione di questi POS, questi strumenti che permettono l'utilizzo della carta elettronica o carta di debito, insomma della carta di pagamento, sono aumentati negli ultimi 5 anni del 57,9%, quindi del 60%. Certo. Direi che c'è stato un incremento volontario senza bisogno di sanzioni. Il problema va affrontato nei termini giusti, che è quello dei costi di queste carte, dell'utilizzo di queste carte, che ad oggi ricadono interamente sulle imprese. Allora, siamo in un momento dove si parla di timidi segnali di ripresa. Bene, vogliamo portare la nostra economia davvero in un commercio 4.0, cosa di cui si sta parlando, no? Nel nostro ministero. Benissimo, facciamo questa cosa, ma togliamo e sgombriamo immediatamente il campo da false risoluzioni tipo queste sanzionatorie che non portano da nessuna parte. Invece bisogna intervenire perché il costo della transazione elettronica non pesi, non gravi solo sulle imprese, ma nemmeno sui consumatori. Quindi ci sono degli esempi che si possono prendere da altri stati dove è stato affrontato questo problema, senza far ricadere i costi, torno a ripetere, su imprese e consumatori. Ecco Presidente, una domanda, gliela faccio subito diretta così perché ce lo scrivono anche al 349-238-6666, oramai tra voli low cost o voli tradizionali siamo un po' tutti abituati a fare almeno delle piccole vacanze in Europa e vediamo che negli altri paesi anche per un caffè veramente prendono la carta senza fare problemi gli esercenti. Perché certo, da noi c'è questo atteggiamento sempre un pochino come se si stesse chiedendo certe cose, la luna certe volte, oppure ci sentiamo rispondere che la transazione è troppo elevata e che quindi non conviene sotto alcune cifre? Perché solo infatti, in Italia accade questo? Il problema è proprio questo, perché in Italia non è stato affrontato come nei termini in cui avrebbe dovuto essere affrontato, ed è quello dei costi. Allora, i risparmi per le banche vanno a ricadere su il costo della transazione sulle imprese, attraverso il costo della transazione. Non è così che si risolve il problema. Il problema si risolve a monte, cercando di capire come meglio far veicolare l'utilizzo di questa moneta elettronica, sì, andando a degli sgravi sia per le imprese che per i consumatori. Per sgravi non si intende come dire dare degli incentivi per, ma non mettere dei costi per l'utilizzo di questa moneta. Ma pensiamo ai benzinai, sì, ai tabacchini, alle edicole che molto spesso vendono valori per conto dello Stato, no? Su cui non hanno un margine assolutamente ridottissimo. Certo. E a questo noi aggiungiamo il costo della moneta elettronica, lei può capire che tanto è vero che tante imprese le dobbiamo chiudere, insomma, perché strette dai troppi investimenti. Allora cerchiamo di portare il nostro paese davvero verso una modernità, verso una capacità di, come dicevo prima, entrare in questo mondo dell'impresa 4.0. Tanto per cominciare apro una parentesi. Sì. Facciamo in modo che arrivi ovunque la banda larga, perché questo è anche un falso problema, quello dei 30 euro di multa, no? Quando abbiamo dei posti dove non si può pagare perché non arriva la connessione, quindi non si riesce nemmeno a utilizzarla la carta. Certamente. Però torniamo al problema dei costi. Non si può pensare di risolvere il problema scaricando dei costi su qualcuno. Vanno prese delle decisioni dove c'è l'importanza di questo utilizzo di questa moneta, sì, benissimo, e allora andiamo a vedere come fare, perché questo non si può fare andando a sgravare i costi sulle imprese e, ripeto, sui consumatori, facendo attenzione più lo Stato che deve entrare. Ecco Presidente, mi scusi, ma dov'è il collo di bottiglia? Infatti, nelle banche, nei grandi gruppi che di fatto monopolizzano le carte di credito, senza fare nomi, sono 2-3 al massimo. Esatto. Dov'è il collo di bottiglia maggiore? Questi pongono i loro costi, allora a questo punto lo Stato non può pensare di penalizzare l'impresa con una multa, deve intervenire e fare un po' da mediatore fra questi due mondi, no? Perché, ripeto, le banche non possono scaricare i loro costi sulle imprese, perché a loro l'utilizzo della moneta elettronica è importante, fa risparmiare dei costi per la gestione delle transazioni, giusto? Sì, benissimo. Certo. Oltre al risparmio dei costi si fa pagare all'impresa un costo in più per l'utilizzo di questa moneta, non esiste. Quindi, perché mi scusi? Mi pare di capire che la transazione abbia una percentuale indipendentemente da quanto viene dall'importo preso in considerazione. Se io spendo 1000 euro ci sarà una percentuale uguale che se io compro un pacchetto di sigarette. La transazione è il costo che la banca applica all'impresa per l'utilizzo ogni volta che fa una strisciata sul POS. E dirò di più, aggiungo un'altra cosa. Questa transazione viene, come dire, non solo accollata sull'impresa, ma non possiamo, è per quello che è importante che lo Stato faccia da mediatore in questa partita, perché non si può pensare che queste spese vengano invece scaricate sull'utenza finale, sul consumatore. Andiamo non, abbastanza non di fretta. Uno dei due. E le volevo chiedere un'altra cosa perché ce lo scrivono i nostri ascoltatori, così sì? Diamo spazio anche al 349-238-6666. Un nostro ascoltatore ci chiede, i costi, secondo questo ascoltatore, sono irrisori del commercio elettronico. Non sarà che non passando la carta si riesce ad evadere? Questa è una domanda di un ascoltatore. Allora, le chiede una risposta brevissima. Brevissima, è un falso problema, ci sono altri mezzi per verificare l'evasione. Noi sappiamo che da tempo che sono stati inseriti introdotti gli studi di settore, e quindi è da lì che si va a vedere la gestione di un'attività. Perfetto. Ma io voglio aggiungo una cosa, sì. Lo segnalo anche ai vostri telespettatori. Nel 2015 c'è stata una risoluzione nel Parlamento europeo, hanno preso una decisione, quella di imporre dei costi, un limite, un tetto massimo ai costi delle transazioni. Il nostro in Italia è stata recepita, ma non è mai stata applicata. Sì. È per quello che dico che il nostro governo deve prendere in mano questa situazione e parlare con i due soggetti e fare in modo che non ci sia uno più penalizzato rispetto all'altro. Perfetto, la ringrazio. Grazie Presidente della Confesercenti Patrizia De Luise. Noi torniamo al discorso degli Stati Uniti, dei grandi magazzini, dei grandi centri commerciali che sono presi dalla concorrenza, quindi i loro margini sembrano ridursi a causa dell'e-commerce e dei grandi gruppi web che fanno commercio online. Chiedo conferma al corrispondente da New York del Sole 24 Ore, Marco Valsania. Marco. Salve, sì, come dicevi, sì, questa crisi strisciante, ormai non più strisciante, del retail tradizionale, dei grandi magazzini e dei negozi, delle catene di negozi in America si sta facendo sempre più aperto, sempre più grave, proprio per la trasformazione tecnologica, l'avanzata, diciamo, inesorabile del commercio elettronico, dell'e-commerce, a cominciare proprio dal suo colosso, dal suo protagonista americano. Certo. di prima fila, cioè Amazon. È una crisi che, appunto, qualche analista, osservatore particolarmente acuto ha appunto già battezzato come l'apocalisse del retail, quasi una nuova forma di deindustrializzazione così sparsa, diffusa nel paese, che è paragonabile a quella che era stata la deindustrializzazione degli anni così 80 e 90, quando appunto con lo shoring, con la crisi, diciamo, della Rust Belt, delle industrie manifatturiere tradizionali. I numeri, Marco, dicono questo, tu ce lo confermi? Tra l'altro viene messo in crisi proprio anche il luogo fisico, no? dell'incontro a livello di socialità, di quello che per decenni è stato il mall, l'incontro tra tante famiglie, perché a questo punto molti decidono di rimanere in casa e acquistare online. Assolutamente, assolutamente, un cambio abbastanza radicale, appunto, che è cresciuto, diciamo, cresciuto nel tempo, un cambio però abbastanza radicale delle abitudini dei consumatori, e unito assieme alle tecnologie della grande distribuzione, rivoluzionate a questo punto da Amazon, che, come ricorderanno tutti, aveva cominciato con le librerie, con la rivoluzione, diciamo, nelle librerie, ma a questo punto poi si è estesa, diciamo, nell'insieme del retail. Quindi i mall, i tradizionali mall, sono sotto pressione, così come anche le grandi catene di negozi, serie di bancarotte che si sono accentuate quest'anno. Dall'inizio dell'anno sono andati persi oltre 100.000 posti di lavoro nel settore americano, certo, a fronte invece di una crescita generale dell'occupazione. Grazie, siamo in chiusura. Grazie Marco Valsania, corrispondente da New York del Sole 24 Ore. Un ringraziamento a Mauro Del Corno per l'assistenza al programma, Alessandro Chiappini in regia, un saluto da Vincenzo Miglietta.